ma la Red Bull. Aspetta, lavoro sveglio con grillo tutta la notte. Ehi, rilanciamo Giovanna. Giovanna, avanti. Ciao ragazzi, io mi spiego due cosettine perché devo svegliarmi, devo pensare un po' qua al volo. Va bene Giovanna, ci stai lasciando così? Oh, non ti ho sentito. Ho detto ci stai lasciando, devi fare qualcosa. Devo lasciare per forza, devo sistemare un po' qua perché ho una novità e quindi niente, devo sistemare. Ho capito, dai. Buona giornata, allora, buonanotte, non buona giornata, buona sistemazione. Ma già sei emozionato? Ciao, divertitevi, mi raccomando Marco. Quando siete voci di donna. Sì, perché così ti alleni per le 5 di venerdì. Aspetta, forse avete ripreso in due. Hai detto alle 5 di venerdì dobbiamo fare la nottata? Sì, possiamo tanto questa settimana di venerdì ci riusciamo a fare la nottata, perché la prossima settimana mi viene male, che c'è gente in casa. Vediamo cosa ne esce, ma se riusciamo a fare la nottata. Dai, ci proviamo, buttiamo giù due appunti, vediamo un pochettino di cosa chiacchierare fino alle 5, se no ci mettiamo anche a cantare, tanto ti sono freddo. Facciamo il karaoke via radio. Mamma mia, che cosa ne esce. Già stato fatto. Sto facendo male a fare il karaoke, ho detto tua fa. Rose rosse, io voglio sentir cantare. Na na na na na na. Rose rosse per te. Dunque, hai visto già come una voce femminile illumina tutto il canale? Questo triste grigio canale. Certo, l'ho detto anche ieri che fa sempre piacere sentire la voce femminile. Vabbè, Giovanna è una delle superstiti, anzi, la superstite della 27. Eia, sì Giovanna, dai, buona serata con tutto quello che devi sbrigare. È vero, è l'unica ex CB che ogni tanto si affaccia, che fa capolino. Unica. Vabbè, merito anche del fratello, io sai che ero convinto che dopo tanti anni che non entravo non ci fosse nemmeno Pomponio, invece Pomponio è inossidabile. Pomponio potremmo dire che è la 27. Prima era Falcone, adesso mi sostituto. Che paragone! Tu ti hai notato ma non demorde. Io l'avevo conosciuto primi anni 80, sarà stato 85, quindi era giovincello anche lui, io poi piccino proprio. Poi l'ho visto dopo tanto con i capelli bianchi. Ho detto, mamma mia, passa il tempo, porca miseria. Erano passati, quindi, dall'85 al 2010, tanti anni. Avanti, chi altri c'è qua? Comunque anche io me lo ricordo sempre Alessio, anche tanti anni fa quando è iniziato io, arrivava anche forte in campagna, giù verso Villa Gorizia, dai. E poi nel vecchio QTH ci aveva anche belle attrezzature, dai. Moneta arrivava forte, poi c'era il Torre San Giovanni. Ma Pomponio cosa aveva all'epoca? Tipo BV 2001 può essere? Non mi ricordo, però erano tutti ben attrezzati. Guarda, all'epoca anzi se non avevi un linearone da 600 almeno non eri nessuno. Mia cugina mi sentiva anche dentro le lampadine, la lavatrice, dappertutto, nel citofono, nei telefoni portatili, nei vecchi cordless. E avevo sentito racconti appunto che c'era qualcuno che premeva la portante e accendeva il neon del palazzo di fronte, dell'appartamento del palazzo di fronte. Ho già visto che te le spegnevoli luci. A chi avevo il giambo? Quello era bello, 600 e 1200 ne davo, mi pare, no? Aveva un paio di valvoloni dentro, adesso mi è rimasto il piccoletto, il piccolino, come si chiama, lo Speedy? Sì, lo Speedy, quello che c'è una barba. Sì, quello ce l'ho ancora, l'altro io l'ho provato, ho visto che già scalda ancora, come stufa funziona ancora. Era della CTE dopo lui lo Speedy. Sì, anche il Jumbo mi sembra che fosse di quella stessa linea. Cosa aveva? Aveva anche, mi sembra, l'amplificatore di antenna, ti ricordi? Sì, aveva tutto. Era un bel bello, E io avevo quello, l'Eghe Inquinto, il Turner MP2U, quello da Palma, quello grigio e celeste per intenderci. E poi c'avevo un distorsore che praticamente era un insieme di lucette che quando tu distorcivi con la radio te le segnalavo. No, non la conosco. No, io avevo la camera eco, quella della ZG, ma ne usavo appena appena di reverbero, e poi si è bruciata, non la trovo più. Anche il lineare non funzionava più, sicuramente mio padre ce l'avrà buttato. E anche io l'ho avuta la camera eco, però non era della ZG, la mia era Daiwa. Sicuramente, ma comunque usciva bene, poi amplificava anche, quindi usavo questo apparecchio con questo microfono, in più in mezzo c'era anche la camera eco che amplificava ancora di più la radio. Ci attrezzavamo anche prima. Io avevo questo distorsore che l'avevo comprato qua a Sassari, avevo la GBC, praticamente si collegava all'apparecchio. Cosa succedeva? Che tu quando distorcivi con la radio si scendeva le luci rosse, prima cominciava il giallo, poi il verde e poi andava sul rosso. Sì, ma serviva a che cosa? Per vedere quando distorcivi con la radio. Ah, quindi non è che è un distorsore, cioè, e ti evitava la distorsione, beh. Esatto, tu regolavi la radio in base alle lucette che si accendevano, erano dei LED, gialli, verdi e rossi. Non so se c'è qualcuno che l'abbia avuto, io mi ricordo bene, ce l'ho avuto. No, neanche lo conosco. Senta Roberto, che vedo ogni volta lui fa dei controlli così, non so cosa che strumento utilizzi per verificare la radio, dai. Questo qui era un apparecchietto fino e rettangolare, allungato rimanendo. Vabbè, dai, già non ho problemi di distorsione, già non esco così forte, dai. Vabbè, allora ero un ragazzo, era tutto per fare macchia nella stazione, dai. Per vedere un po' di LED accesi. Allora, era proprio una questione di bellezza, dai, diciamo, più che altro. Tipo gli equalizzatori in macchina, ti ricordi con tutte quelle luci che dal verde andavano verso il giallo e poi finivano con il rosso? Sì, è vero. Hai avuto bene di quegli equalizzatori amplificati, cazzo che bene che erano. L'ho avuto anche io nella 500, mi avevano fatto un impianto a Porto Torres, questo qua, che poi lavorava da Grishenko, probabilmente faceva gli impianti da Grishenko. E mi aveva praticamente bucato la lamiera dietro, dove c'è il vetro di dietro, c'è lamierato, l'aveva bucato e ci aveva messo due casse e un bel grande. Lì poi ci aveva messo il glitter, il nino, il strutturato. Se sentivi questa macchina valeva più l'impianto della macchina e ci aveva anche l'equalizzatore. Sì, mi ricordo. Si è bucato la lamiera, non era... No, noi gli impianti ce li facevamo noi, dai, ci arrangiavamo bene o male un po' a tutto. E vabbè, ma questo qui l'ha fatto con le controparole, però c'aveva capi grossi, tutta roba. E allora si usava Alpine, non Alpine, GBL. E anche Alpine, Ion era Alpine, GBL. E ce n'era roba, anche la Sony. Io c'avevo GBL come cassa, GBL mi aveva piazzato. Ma erano, mi pare, 3D e da 390, una cosa del genere. Vibrava tutto il vetro con HW. No, noi per i bassi usavamo sempre il sub, una bella cassa fatta in legno come si deve, col buco con il bass reflex, imbottita bene per le vibrazioni, ma lì se facevi strada bianca c'era un po' di fango attaccato, come al tavi si staccava tutto. Vabbè, io ce l'avevo, un bel impianto ce l'avevo nella Opel, nella Station Wagon, lì c'avevo proprio il sub Hertz. Tutti i Twitter, Midrash, l'amplificatore Alpine, era un bel bello con l'impianto, toccava un bel... Ormai comunque già le macchine della casa escono già con un buon livello, dai, diciamo, abbastanza accettabile. Vediamo che ci è rimasto, Luca? Io sono qua in ascolto io. Poi che ci è rimasto? Giovanna, penso che sia andata via così. Alessio, Marco. Sto boccheggiando, dai, un po', sono abbastanza rilassato. Io volevo dire, comunque la Red Bull è una cosa banale, perché non so in quali stati, vendono queste bevande energetiche che hanno dei livelli di caffeina e di taurina, ma soprattutto caffeina, talmente alti da essere illegali nella maggior parte del mondo. Ma quella è veramente roba pericolosa, mi. Pericolosa, se hai problemi cardiaci ti schianta, è quasi una droga. Cioè, aspetta, se trovo la marca ve lo dico. Ma roba che usano tipo in Thailandia, ma roba da matti, mi. Roba da proprio da puntini. Sono delle bombe, sono, sì, non so che sono vietate, sì. Cioè, in realtà non dovrebbe essere neanche un prodotto vendibile, non in lattina, cioè come se fosse, se ti fai 10 botte di cocaina tutte di seguito, boh, non saprei fare un paragone perché non sono pratico delle sostanze. Sì, non dovrebbe essere neanche commerciabile quella roba lì, come dici tu. No, da noi no, ma credo vietate in tutta Europa e in America, credo che sia roba thailandese, adesso ve lo dico, vediamo se le trovo. Bracco, ci sei? Sì, sono in ascolto, ma di cosa stai parlando? Di droghe? No, perché io mi arragno in campagna, quindi diciamo che conosco un sacco di erbe, quindi la maggior parte dei malanni me le faccio guarire con le erbe che conosco, no? Però da qualche tempo a questa parte, porca miseria, sto accusando dolore alle ginocchia, e mai avuto in vita mia, e non so manco che cavolo ci voglia, vabbè, c'ho 83 anni, ma... Cavolo! Un giovanotto ancora, vai! Senti, tiene fuori di capo che faccia dei dolori. No, stavamo parlando, Bracco, di queste sostanze, queste bevande che vendono specialmente nelle discoteche, dai, le Red Bull, che sono cariche di taurina, teina, caffeina, tutte sostanze eccitanti che insomma ti mandano il cuore a mille, dai. Insomma, sono pure pericolosi. Mi ricordo una roba, mio nipote diciamo aveva preso una specie, non dico sgornia, una sera bevuto di questo Red Bull, no? Ma parecchio, un momento diventava scemo, porca miseria, non è dormito, ne ha fatto un caso del diavolo. Sì, infatti, io mi ricordo, avevo un parente che faceva il buttafuori in discoteca qui a Blue Star, e se ne faceva fuori 7-8 ogni notte che lavorava. Ma come fai? Ma infatti ogni tanto già qualche colpo, qualche botta la prendeva. E lo so, fa male. Diciamo, io diciamo, se non voglio dormire, che dovessi fare la notte per qualche motivo, prendo il caffè oppure il tè anche. Non vado oltre queste cose qua. Ma io qualche volta l'ho provata, sinceramente, e sicuramente ti tiene sveglio, specialmente quando non sei abituato, che la prendi una volta ogni morte di pappa, diciamo, e ti fa ancora più effetto. Cosa contiene in sostanza? Sono tutte sostanze eccitanti, tipo caffeina, teina, taurina, tutte cose che aumentano il battito cardiaco. È pericolosa per la gente che ha la pressione alta o no? Beh, non è indicata, infatti, secondo me è anche pericolosa. Va bene, no, ma può sostituire anche il Viagra per caso? No, non è a quei livelli. Trovata Wired, scritto W, Wired X505, dice un drink energetico con quantità di caffeina e taurina tali da essere da collasso cardiocircolatorio. Praticamente non so quante volte la Red Bull, sia come caffeina che come taurina, questi sono scemi insomma. Dove viene commercializzata? Allora, Wired con la W, V-Red con la W, Wired X505, lattina gialla con delle specie di fiamme grigie. E questi in America, guarda che hai visto certi americani, sono dei bestioni enormi, no? Quelli dice che si prendono per drogarsi la chetamina, roba per cavalli. Lasciali fare. Cioè, questa è roba da a livello di rave party, più tutto quello che si beccano assieme, si beccano questa, più alcolici, più altre droghe. Yuhu! Grande mix! Questo è uno sguardo stazionario, ma no, sono al minimo. Sì, meno di così non si può. No, scusate che stavo prendendo il verticale, mi avete chiamato. No, no, io anzi vi saluto che anch'io domani lavoro, quindi andiamo a darci una rinfrescata, una doccia e a nanna. Ok, un abbraccio a tutti. Me lo prendi Gianni? Ehi, allora, ciao Fra, buonanotte, sono in ordine. Ciao Fra, buonanotte, buon tutto, dai, ci sentiamo. Ciao Fra, buonasera Fra. Dai, buonanotte a tutti. Ciao, ciao Fra. Chi è? Ehi, era un po' dubito la felicità, c'è cioè, sì. Antonello, c'è ancora? Ora ci dovrebbe essere il Torino. Avanti Antonello. Ehi, sono qua. Sono trovato Antonello. Aspetta, guardo io nel telefonino mio. Aspetta due secondi. Io tre foto io, mezzo vivo. Aspetta, controllo la motore di cerca due minuti. Io ho cercato lo scooter e lì. E mi hanno chiesto, ma di capanti. E da che conti a 2-3 mila euro. Aspetta un attimo. A me pare gli altri compare Gio Kawasaki proprio prima. Ecco, sì. Tanto ce l'avevo già anche su. Tonino, che moto avevi tu? Tanti anni fa. Kawasaki 750. Aspetta. Hai detto Kawasaki modello? Allora, ZR. R7, se non faccio mi ricordo. Aveva 4 carburatori, 4 in una, 2 circolati. Quelle tipo anni 70, quelle belle, quelle serie belle. C'aveva il cupolino là, ma era quella zona che era bella. A me piacevano parecchio quelle Kawasaki, anche la serie Z, vabbè io ne avevo una, ma avevo un motore giocattolo, se tipo scooter, il Kawasaki Z250. E poi ero passato a una Honda 400, ma sempre roba piccola me. No, adesso io fuori scappellavo un bella verità. Alla fine appunto, guarda c'è, cioè, io per tutta roba in tre quattro volte. Perché tornava sempre a me quella moto, avevo le palle piene, avevo. Ehi, Tony, ti sento un po' basso di radio rispetto agli altri, puoi fare qualcosa? Cosa posso fare? Io sono fuori casa, mi parlo una voce bassa. Cosa cambia così? Molto. Va bene? Capito, bella moto, però sì, che saliva l'adrenalina a 1000 quando accelerava. Tu pensa, prima secondo il piede sarò già a 160. Ma era, siccome non ricordo la sigla, era due tempi o quattro tempi? Quattro tempi, poi ho tolto la manetta originale che era un trombone grande ed ho messo la Leo Vinci, cazzo, una bestia era la moto. Non so se Gianni se la ricorda, ma c'era anche a quei tempi una Kawasaki che era tre cilindri, due tempi, cilindrata sempre grossa, ma era una bara, era ingovernabile e i freni erano inadeguati alla potenza del motore. Allora, tu stai dicendo quelle Kawasaki 550 verde, tre marmitte? Non mi ricordo, sono passati tanti anni, però tre cilindri del tempo, una bara, era conosciuta perché c'era morta un po' di gente. No, c'aveva anche Giulio Pinna, ce l'aveva però lì, no. Ma anche per lo chiamano il baule, era il Kawasaki 400, era proprio un tiribicco di moto, ma che l'idea camminava bene. Però va bene, non era l'ibirio che c'avevo io, quello che c'avevo io pesava già 2,5 metri. Io andavo a vedere le gare a scala di ciocca di Gioppina e tarda al risorso. Ah, la butta Gioppina quella due tempi, è un nome, una garanzia mia, hai spiegato tutto. Confusione, che c'è davanti a scala di ciocca. Gioppina aveva il Kawasaki 900, il 550 verde, due tempi, ce l'aveva il fratello Tullio Pinna. Sì, non sai perché Tony, io mi ricordo addirittura, se non sto sbagliando io, una 750 a due tempi, e quella era veramente pericolosa da governare. Io freni mi pare, non so se fosse la tambura all'epoca, ma chi siamo? Ma io questa 750 non me la ricordo, perché in realtà c'era anche là, per la 750 era una bella bestia, era pesante, tosta come moto. Ma la mia non era quei livelli là, la mia era del sera verso 8494, volo pure in corso. Ecco. Ho fatto il lover da 1000 su un amico. Cioè, un amico mio lover da 1000, poco camminava. Eccola, trovata. Kawasaki 750H2. Conosciuta anche 750 Mark 4. Due tempi, dal 71 al 75. Questa era la Parami. Ecco. Ciao a tutti, state parlando di Kawasaki, no? E allora, ne so un po', dai. Ehi Gianni, mi guarda, Kawasaki 750H2, cilindri non so se 3 o 4, ma cosa aveva questo? Freni? No, davanti a disco comunque. Ma ne ho sentito parlare abbastanza male, più che altro perché ti scappava di mano, una cosa del genere. Io avevo il 750, grazie a Dio, freni a disco, doppi davanti e uno dietro, la mia era più moderna, dai. Sì, la serie a due tempi era partita col 350, 500 e 750. Mamma di turchi. Cristo Maria. Bei colori anche, ce n'è un arancione con la cosa gialla. Un arancio strano, tipo ocra, può essere. Però a me piaceva un bel Kawasaki 550, quello verde, tre barbiglia, due tempi. Piaceva un bel rompo pure. Ehi, mi ricorda molto il film di Mel Gibson, famoso. Porca miseria, Interceptor, una cosa del genere. Ciao Tonino, ciao Gianni, buonasera. Allora, permettimi, però, allora, i due tempi era 350, 500 e 750, 550 a due tempi non è pervenuto, per quanto io lo sappia. Buonasera comunque. Quello verde era 550, o 500 era forse, quello della marmitta. No, non 500, cifra tonda, non 550, non ho. Usciva, il primo è stato il 350, freno a tamburo, poi è uscito il 500 con monodisco, poi è uscito il 750 sempre monodisco, poi si sono accorti che era praticamente insufficiente e è uscito il modello, la serie seguente col doppio disco anteriore. Quindi era 500 quello verde, dico io, dai, due tempi. Sì, due tempi e tre cilindri, sì. E già aveva anche un bel rompo, era bella, era. Non sono riuscito a trovarlo manco io, Tony. Tu da non va. Allora è passata una cosa qua. Adesso ci fanno nuovi nuovi. In pratica, io ho cittadinanza che verrà a lavorare i campi. Però a posti d'anzi, i 780 euro ce l'hanno quasi 1000. Comunque, Antonetto, l'hai trovato? No. Ho visto degli scooter, ma non è quello lì. C'era 1000 euro, 2000, cazzo, costava 850, costava. Che guardo la pubblicità su TCS, tanto l'hanno la mattina, lo danno. Ma se guardi la TV la mattina c'è sempre pubblicità e te lo mandano. E ho la ditta di Paolo Torres che li vende. Io domani vado dall'Alomoto, se non c'è niente in coso vado da tutto moto. E una me la prendo, una o 1000, 2000 euro lo verrà tutti in puta. E cosa ti vuoi pigliare? Una moto che cammina un bene. Cazzo, c'era la moto che mi sa. Eia. Come mai ti butta la foto? Io me l'ho venduta perché... Boh. Ho detto, mi sono salvato sino adesso, tutti gli amici mi sono morti. Ascolta, io ho ancora le giubbottine in pelle che facevo motoratori. E dietro ce l'ho sei, ma di stone ero 20. T'ho aggiunto tutto. Ce l'ho anche io, il giubbotto, la ancora, le guanti, tutto. Io le guanti le avevo perse, non me le riprendo, non c'è problema. No, fare motoratori mica per correre, dai. Però una moto, insomma, soldina, dai, che cammina un po'. Che tipo di moto vuoi? Oh Kawasaki, sono o non sono Torino Kawasaki? Ma tu ce lo vedi a Torino Kawasaki in onda? Ma... vabbè, meglio un vizio che si è tumorato, e beh, tanto meglio. Oh, yeah. Ma cosa ci vuoi fare? Vabbè, comunque, la moto era molto, dai, che l'estate piace, però poi diventa fresco in macchina dopo casino, ragazzi. Sì, ma dopo il duro, ma non ti credere. Già c'è dolore adesso con la macchina, cosa sarà? Quello molto più basso la manco. Scusate se mi intrometto. Torino, fare quello sbaglio, me. E cioè? Di comprarti una Honda. No, gioco manco era un trattativo per una moto, dunque, un 750 Yamaha tipo Cato, non so come si chiama, cambiamento più, comunque, vabbè. Cazzo, ma non è la stessa batteria, ci te la compri la batteria, te la compri. Se me la compri tutto l'altro, aumento il prezzo, fa una cosa, e di moto è tutto cazzo. Allora, ti metti bene che io vedo una moto, una macchina, e te l'ho senza batteria o senza ruote, ma è il cazzo niente. Ma che grado di brufare, come la provi senza batteria? E mi devo portare la batteria a braccetto e gliela porto, gliela metto, torno adesso provo la moto, ma non tenere. Comunque non c'è andare tanto, da truffato non c'è andare. No, ho detto che guardavo, secondo com'è, ce ne sono i rivenditori moto, guarda, ci sono quei concessionari che hanno qualche moto grossa e non la vendono, e tu se ne passi il prezzo, loro dicono no, e tu di 1000-1500 li hai svintoli davanti e te la date lì subito. Sì, sì, concessionari magari sì. Io mi ricordo tempo fa, proprio. Sono andato a prendere una macchina, allora c'era la Fiat Punto, no, la 1. Avevo chiesto a dammela, a Petipera, questa nuovissima, guarda. Quanto ne vuole? 5 milioni, no guarda, non c'è la lira. Se non è 4 milioni mi fa passare il salato presente. No, non se ne parla neanche, mi trova in tasca. Io sto qua di casa, io faccio i contatti. Mi guardava, arrivederci. E anche alla porta sono arrivato, venga qua, venga. Non le fai finanziare, io fa il contante, non me la faccio nulla. Se me la vuoi dare, me la dai, sennò domani faccio un giro a vedere, trovo qualche cosa. Poi se non trovo qualche moto veloce, mi piglio uno scooterone, per la vecchiaia già mi va bene. Se prendi lo scooterone, prendi il T-Max. Ehi, ma cammina troppo dai, T-Max. Con il T-Max oppure quella che ci avevo io. Voglia. Sì. Era una bella moto. Il Burgman, la conosci il Burgman? Ah? Il Burgman. Lo me ne appento con te. È più bello del T-Max come disegno è più bello, come aspetto, però il T-Max cammina di più, la mia faceva 160. Ma io non ce lo vedo, uno scooterone che cammina così, capito? Io mi ricordo una volta, avevo sempre il Kawasaki, questo ultimo che ho venduto, che ero all'inizio, c'era il semaforo nel mercato, e mi sono sentito che tutti i maxi, wow, accelerenti, ma vedavo, come scatta il verde già. Anzi, prima e seconda era già il semaforo del Teatro Verdi. Andavo nel piano piano, arrivi duendo, mi guardava assorto, punto e cagliato. Ma io ne ho visto una a Porto Torres con una moto grossa, ho visto le aggiunture che fanno dell'asfalto. Infatti ci ha messo una volta in mezzo all'aggiuntura, ha cominciato a sbandare, ti ho visto si frabbilegge. Oh, ce l'ha fatta a tenerla, ha avuto una canna, ma brucio forte, ne ha sbandato un po' di volte la moto. È pericoloso, queste moto corrono un po'. Io mi ricordo quel poveraccio di Porto Torres che è andato a Senoli a voler vendersi la sua bella Yamaha 1000. Poi se ne è tornato dietro, la moglie è dietro in macchina e gli altri amici in moto. Ha fatto la seconda crua, accelerato, ha sbandato, si è morto, il poveraccio si è pronto manuca. Sì, è vero, lo ricordo anch'io. Ma poi succederà. Io ho avuto diversi amici. Come si chiama? Gianni, tu l'hai conosciuta Giuseppe Carboni? Giuseppe? Carboni. Il nome non mi è nuovo, che moto c'aveva, non te ne ricordi? Un Ducati, ci ha lasciato le penne e era andata sotto a Teresa. Stiamo parlando di anni? Circa un 6 o 7 anni fa. Adesso in questo momento ho un po' di... non lo ricordo. È un nome che ho già sentito comunque. Però adesso non mi viene in mente nulla. E Angelino Pinna, lo conoscevate? Quello di Via Pirante? Quello che è morto stando a moto raduno. E io ho fatto il giro da Uzieri. Mi sembra che il moto raduno era. Come cavolo era? Ah, nera, non mi ricordo. E io dall'alto vedevo soccasse carabinieri di polizia, fatto usare, arrivo giù e metto lì un po' a proseguire, c'è un incidente, lascio la moto, vado giù a piedi e c'è un angelino che, come ha preso il guadarrai, che questo l'ha castigato in macchina, la moto si è incastrata al guadarrai, lui si è tagliato la gamba, il sangue mi sia, quella dell'ambulanza glielo facciava, se la sente la gamba, e tu scusi, ma che cazzo lo portate via? Perché lì si stia zitto, da lì sta morendo di sanguato, quando mai cazzo c'era l'elicottero in casino, spento il motore, beh, quel poveraccio di Angelino Pinna è morto esattamente per la negligenza di questi pezzi di merda, lo dico che è tondo, dell'ambulanza, dell'elicottero dei vigili del fuoco, perché quando c'è il motore dell'elicottero portano all'ospedale, insomma, sono passati esattamente 45 minuti e io perché sei pulso il poveraccio. Evidentemente ha trovato gente che non era competente, perché l'emorragia si può bloccare con l'accenno statico e praticamente loro devono fare il primo soccorso sul posto, tu non le sai queste cose, ma io ho fatto 14 anni in servizio ambulanza come autista e come soccorritore, quindi so le cose come vanno. Devi fare il primo soccorso sul posto e poi portarlo all'ospedale. Però se tu non li calmi l'emorragia che c'ha, ti muore lo stesso viaggiare. Sì, ma loro erano fatto il primo soccorso lì, perché erano già bel box di ragazze e ragazza che erano lì cercando di inventarlo, eccetera, per loro non hanno bloccato l'emorragia, senz'altro. Però poi ha messo in moto l'elicottero e sono stato fino alla fine. E hanno messo in moto l'elicottero, i vigili del fuoco, e insomma, era due curve più sopra, portarlo sopra con l'ambulanza, a saldare il motore, ripartire, poi andare all'ospedale, insomma, praticamente 40 secondi sono fermi. E tu non vuol dire che se non va andare, io non voglio che ti dica. Però guarda che io, cazzo, ne ho fatto uno di intervento sulla strada di Porto Torres di due tedeschi, che erano messi male un bel in moto, sono caduti in moto, cazzo, sono fatti male veramente. Hanno portato via l'elicottero, io sono salito sull'elicottero, il mio collega con l'ambulanza ha portato l'altro con l'altra mia collega, sono salito sull'elicottero io in bici. E poi Angelino Pina ha fatto tutto l'Europa, era un bravo pilota nel moto. Chico Macoco, pastore, il sole in faccia mi ha dato, era corto, e dove c'è corto qua? Brutto pezzo di merda, ma devi pregare che Angelino non è cazzo mio fratello, anche se io ti ho attaccato un punto. Cazzo, poi c'è musica, mi dirmi, no, c'è pronto che però già cosa mi ha attaccato, cazzo. E beh, fate il po' poco, che si fa cosa, ma infatti già. Eia. Sì, c'ho tempo fa, ogni tanto ci capitava di fare qualche uscita insieme con la buonanima, con Angelino, visto che anch'io sono stato e sono ancora tuttora possessore di una Kawasaki, ho dei bellissimi ricordi, quando ci trovavamo al Bar Tommaso, pronti per fare il giro domenicale. Ti voglio fare una domanda, Twin. Ti ricordi qualche anno fa che a Sassari girava un Kawasaki emetico celeste? Kawasaki celeste. Aspetta, faro tondo. Celeste, chiazzato, faro tondo con la stella rossa sui fianchi. Yes. Quella era la moto mia. No, il mio era invece diversamente, aveva il coppolino bello sagomato, era bello da vedere proprio. Era il periodo che uscivamo lì con Angelino, allora c'aveva ancora il ZXR 900, il Ninja, quello grigio, se l'aveva appena preso. Io siccome ero uno dei meno veloci, perché figurati tu, c'era gente con l'R1, c'era Gian Piero Bulla, altra gente, con tutti, c'era Cosa di Sorso, esattamente si chiama Mimmo c'aveva il Ducatone 996, insomma tutta gente. io con lo 750 e l'80 pesava 300 kg con i freni di quelli a Ghidi Brici, che tu saprai sicuramente. Ma ci abbiamo fatto quelle certe uscite qua in quel periodo, poi piano piano si è imbastardito tutto, dai. E io frequentavo con Attilio, che c'aveva l'Harley, Ma la maggior parte degli amici che mi ci è muovito domenica erano tutti collati, la maggior parte. Sì, vabbè, io più o meno ho amici su due ruote, insomma, un po' ovunque, adesso proprio adesso sono un po' fermo, però dico, non sono mai stato così fondamentalista da quel punto di vista lì, cioè io sono sempre uscito con le persone che mi garbavano di più, non perché avevano un certo tipo di motto. No, adesso che hai citato la buon'anima, mi sono venuti in mente certi ricordi e all'epoca, diciamo che, sai, proprio perché avevo la moto completamente diversa dagli altri, tutti mi pigliavano il baruguru, capito? E Angelino e cose si prendevano le mie difese, no? E quindi era simpatico il siparietto, dai. Ma molto maturi ne hai fatto, sì? Sì, al tempo sì, poi piano piano mi hanno stancato, troppa gente pericolosa, troppi kamikaze e ho mollato, dai. Poi si facevano quello che era il Cirbones, che duravano tre giorni, anche saliva sul palco la donna che faceva spogliarello. Comunque ti posso dire una cosa, e questo lo devi ammettere anche tu. Io posso dirti a voce alta che tutte le persone che ho conosciuto, molto la donna che c'entra da Cagliari, le parti sono molto, molto amici con la maiuscola, cosa che amici sassanesi non vengono. Sì, dai, io ti ripeto, sono sempre stato chiamiamo così, dai, uso il termine, non dico anticonformista, ma sono sempre stato uno con le idee un po', come si dice, fuori dal branco, dai, e quindi anche le amicizie le ho sempre coltivate a prescindere dalla moto, cioè io ho carissimi amici che hanno moto completamente diverse, per cui non mi sono mai messo problemi se dovevo uscire con Tizio Caio Sempronio, cioè l'importante era stare in compagnia, buone forchette, birrette e insomma e sapere stare insieme, dai. Ma io ho parecchi trofei comunque, c'è ancora, perché... Ma dire una cosa, sì, nel senso, persone che conosci sul momento, perché a parte ci scrivevamo, ci davano il fregio a attaccare il giubbottino, ci davano o la maglietta, e poi si andava a mangiare, si pagava 20 euro di iscrizione, però ti dirò, io mi sono sempre divertito, la verità. Persone che non conoscevi, le conoscevi sul momento, amici veramente, guarda. Non c'erano persone gelosi, quella o quell'altra, no, io avevo un gruppetto, a volte non mi trovavo con troppetto che quello non potevo uscire, quello vuole, io andavo anche da solo, non tirò, mi sono sempre divertito. E problemi non ne ho avuto, ho uscito con la mia 50 e mi sono sempre divertito. Avanti, doppio. E c'è anche Marco. Marco. Io molto radunino non ho mai partecipato, però ce li facevamo io, Claudio, Tino Muscolo, avevamo tutti le volte, andavamo a girare, e una volta siamo andati lì, stavamo passando alla VTV, stavamo facendo il giro, dovevamo fare Cartersalla da quella zona lì, siamo passati dalla VTV, che aveva un morto in moto, una tipa in città che è uscita dalla strada di campagna, la Villa di Pietro. Ho visto una foto tua, Gianni, con mio cugino. Con tuo cugino? Andrea Putti, Ah, tuo cugino, Ehi, vabbè, non ci assomigliamo perché io sono molto più alto di lui. Dove l'hai vista questa fotografia? Su Facebook. Ma ce l'ho io. E c'è tu con mio cugino, ma tu mi hai cazzaggiato con Andrea? Ma sì, sicuro. Mi mani tu e me. No, forse mi sono sbagliato. Io lo conosco, Andrea Putti, va di vista così, non è che siamo amici o cose. Ascolta, allora, io prendo una foto, me la estraggo col mio cellulare e te la rimando a te. Perché il tuo cognome lo so benissimo, quindi. Cavagata. Oh, quindi non preoccuparti, sei tu e buffata. Può darsi qualche concerto così, ci hanno fatto qualche fotografia insieme, non lo so. Non dico che ce l'avevi in braccetto, ma quasi, perché c'è in braccio. No. Magari abbiamo cantato insieme. No, perché è piccoletto, capito? Cappagato. Beh, vabbè. E comunque... Le moto a me mi sono sempre piaciute, io ne ho avuto la bellezza di una, due, tre, quattro e cinque moto. Chi è? No, non ne ho di amica, non ne ho, purtroppo no. C'è il cane vicino a me. Ma perché c'è sempre male questo? Quello di Lugaggiaro è? Ho già, stai facendo male, mi di radio, ma un bel paro. È sempre sano, sì, ma ti ho sentito bene per un attimo e poi di nuovo sa. Adesso vai bene, sei più basso, ma almeno la radio si comprende. Poi non servo a nulla, non tengo nulla le batterie ricaricabili, io proprio le odio. Non tengo carica, sono molto meglio quelle che si buttano via. No, ma quello che c'è nella curva, dove? Grazie, dai, già ho capito. Non ne vende più, già lo so, non vende più niente, prima vendeva le Sigma, le 15.000, le 800, c'aveva la Minox. Diciamo che per andare peggio è meglio così. Dai, va bene. Diciamo che sono in una fase di del lavoro che è un po' così, però già si va avanti, dai. Qualcuno la vende. Ah, ma fa vedere il freddo qui. Ma le ha butti dei grammofoni, lasci. Tuo. Questa non ce ne sarà molto di turismo. Avanti, riprendi il tutorino, mi sa che c'è Marco pure. Avanti, ero Marco, dai. Che a me chiedo come per prendere un giorno. Io sono lì, dai, sto pure mezzo chattando, quindi non riesco a seguire tutto. Ciao Capri. Ho detto, mai una volta che tu sei entrato, che ti abbia sentito bene alla prima, sempre bisogna ritoccare qualcosa. Vai Capri 2. Da dove modula? Muros. Da dove te lo cacciaro? Io dai, c'è Tonino Capasacchi, c'è Marco Rata Pignara, poi ci sarà gente anche in ascolto, non lo so se c'è qualcuno, c'era Alessio poco fa, non so se ci sia ancora, Alessio ci sia, però Alessio c'è dormito, ha partito lì. C'è stato, c'è dormito, sì. Come vi senti tu da Muros? Io vi saluto adesso, ciao ragazzi. Ciao già. Andava a te. Io sono ridotto ai minimi termini, dai. Sono entrato per salutare, ma proprio, dai, spero di dormire da prima oggi. I presupposti ci sono. Ti rilancio, vai Tonino, io Quarix definitivo, dai. Ok, già dai, Quarix allora. E ci sentiamo le prossime avanti, già. Buon Quarix, ma. Mi sa che Marco usa il baracchino per conciliargli il sonno. Ascolta, noi esidromi. Aggiornate. Poi lo sai come funziona, no? L'ho già, te l'ho spiegato. Una volta che passi quest'ora, poi interviene questo stato di veglia e prima di prendere il sonno si fanno le 5 di mattina, anche le 6. Cosa vuoi ti dica? Ce ne ho qua tutti, dai. Dopo che passino la critica, quando andavo a pescare, era la stessa cosa. Sì, la luna me lo metto assonnando, poi dopo luna diventavo un grillo. E poi sai cos'è? Anche questa clausura già non usciva molto, mamma, e non è messa bene. Così, 20 ore davanti alla TV passa, come si fa? E non la distoglie. E tu sprona la uscita. E non vuole uscire, dice le fanno male le gambe, il che è anche vero. E allora si deve pigliare antidolorifici. Così è. Ma lo sai che, a proposito, già, ci hanno chiamato dall'ospedale, c'è piena pandemia, sempre ammesso che esista, no? Questa pandemia, che non sia un'invenzione dei soliti. Ci chiamano dall'ospedale, dice, la signora ha finito le operazioni dentarie per il ricovero. Ha detto, no guardi, da quando ho detto che è esplosa la pandemia, il dentista ha annullato tutti gli appuntamenti e poi stavo per dire, ma cosa deve venire a morire in ospedale? Che l'ospedale è il posto forse più a rischio al momento. Io stavo per dire, ma poi non l'ho detto. Quindi vabbè, loro che potrebbero rispondere, noi ci siamo tutti i giorni, cosa dobbiamo dire? Vabbè, io me la sono scampata perché gli ultimi giorni, praticamente dopo che mi hanno operato, stavano cominciando a tossire, si sentiva gente che non c'era bisogno dell'aerosol, no, ma forse è meglio farli mettere attaccati l'ossigeno, già mi stavo cagando sotto, perché già c'era in giro questa voce. Non vedevo l'ora di scappare. E meno male il giorno dopo mi hanno detto che dovevo andare io via. E infatti hai fatto in tempo già. Poi sai cos'è, quando ripetono anziani, un po' si inaffuzzano, secondo me, detto tra noi, me. Per nonna già abbiamo fatto un'esperienza, no? Che il medico ti diceva, sua madre non uscirà più di qui per come sta. Invece poi uscite come, si era rimessa, poi vabbè, la vecchiaia fa il resto. Ma dove volevo arrivare? Bella domanda, non me lo ricordo. Letto Nietzsche. Dicevi, o è la vecchiaia o è il sonno. Ah, ecco dove volevo arrivare. Questo virus l'ha commissionato l'INPS ai cinesi, capito? Così si toglie dalle balle tutti i pensionati, se no vanno pagati, capito? E voi vi siete posto proprio un po' anche, concetto. L'ho detto, ma stavo parlando di tua madre che la volevano ricoverare. No, vabbè, ma volevo collegarmi a questa cosa degli anziani, no? Per me è un virus commissionato dall'INPS ai cinesi, così si levano dalle scatole un po' di pensioni. Si può pensare anche a questo, di questi tempi. Come avevamo fatto nel film di Fantuzzi, che avevano detto le gite per gli anziani dall'INPS. Da voi va di arrivare, c'è qualcuno che mi fa la più discendente, che come scendevo facevano tutte una botte di gatti spiccicati. Com'era la sigla? Non so, cosa, Istituto Nazionale, cosa, soppressione parassiti, non mi ricordo la sigla com'era. Non lo so come interpretavano. Comunque andavano IMSS col cartello, tutti quanti in greffa, gli anziani tutti contenti di andare in gita. Da qui cazzo di mangiare in bara in galleria e fa fare la pipì, cazzo passa voglia tutti e vieni in sala. Vedi che c'è lo spunto. Cazzo, io si ne faceva un po' furio, un po' di anziani, e in greffa proprio riprendeva, buon lavoro. Sentiva un po'. E dopo cazzo vedevi l'altro treno con i tipi attaccati dal mare. Io ho visto invece i poli fantozzi, capitano l'aereo. Non ricordo sull'aereo. Tony, metà passaggio non sei uscito verso la fine. Addirittura forse non ho scelto bene. Sto uscendo, sì? Sì. Ho detto quello che finì Fantuzzi che era sull'aereo, che l'aereo era tutto rattoppato. C'era un buco per terra, l'ho messo fuori il giornale Fantuzzi. Chi invece è passato si è farato poveraccio. Ehi, che c'era quella ostia terrificante. Alla zia, poi di cartelli, alla zia delle zinturre. Che cosa rotta. Io vi dico buonanotte a tutti, sto sarà adesso usare i miei tutti che vado a prendere i medici e non sto a andare. E altrettanto farò io, se no poi devo pure cenare qua. Dai, ciao Tonino, Gianni Capridue, chi c'è l'ascolto, non me ne ricordo più, Pomponio, comunque ritenetevi tutti salutati, ok? A domani, se Dio vuole, tocchiamo Ferro e non solo. Ciao Marco, ciao. Avanti tu. Questo è casino. Ogni volta, sì. Ciao Marco, ciao poco di starmi bene, ciao Gianna, anch'io me vado in Corinthians, cioè in Corinthians bene, ma mi guardo un po' di TV e poi niente, ma le video anche mi riporti in quella campagna. Statevi bene, sogni belli, a domani, ciao ciao. Ciao Tony, ciao Marco, ciao Capidue, guardati anche per me, ciao ciao. Ehi, ma è un bel abbonutuso. Tony, si copre la radio da sotto. Aspetta, qua stai usando uno shooter. Ma non è che va giù tu. Scusate. No, dicevo, siccome non li ho preso insieme prima, Tonino ti copre la radio da sotto, non so se mi spiego. se tu c'hai un segnale infinitamente più forte ti copre la radio da sotto. C'è un radione quello lì per forza. Te lo ricordo Don Diego? Che ci diceva le porcate allo Schumer, con lo Schumer, che faceva quella diretta. Non dico, non era Tommaso si chiamava. Non dico, si chiamava Tommaso. Non lo so come si chiama, però lo conoscevo come Don Diego. Era un tipo di baffetti che stava col gombetto di lotta. E il finocchiotto e a lui il sole. Questo qua. Santiago 3 mi sta arrivando. No, ma è 5, così sì. Vabbè, io sono campagna, capito. Però la rete è forte, cavolo. Ma la sporca troppo. Cavolo, prova a passare la pera appena con l'usciura. Adesso va bene, prima era troppo voluttuosa, faceva un casino, adesso va bene. È pericoloso non uscire in mano questo. Se poi ci fa vita, no? Già Tizio lo sta vedendo con lo sciure, così ce lo tagliamo. Non fare nada. È pericoloso mano sua, fa casino. Marco, te ti mando il sonno. Ascolta, oh già, mi stava dicendo il tuo capazza che se non vedi lo sciure. E facciamo scambio, no? Compia, certo, facciamo scambio con qualcosa. No, non ce l'ho più, io l'ho già dato da un mese, ma non mi ricordavo manco di averlo, solo te lo dico, che l'ho comprato e poi non me lo sono rivenduto, ho fatto male. È un barrasone, però va bene. La collezione si fa. Sì, c'è un po' di baracca. Io sono rimasto in bianco per un po' di anni, quindi non c'è meno più niente, poi piano piano mi sto rifacendo un po' di roba, ma un po' di roba già ce l'ho comunque, se vogliamo fare scambio non c'è problema, guarda. Ci moduliamo di sera, dai. Vabbè, dai, riprendo perché vi devo salutare, è già tardi, se no disturbiamo qua. Tu sei in una casa unica, io invece sono un malato, quindi posso disturbare. Io già sono in campagna. Tu vivi in campagna, già lo so. E qua posso fare il casino che voglio, non disturbo nessuno. Oh, sono in cuffia io, non è che potrò sentire parlare, ma non lo sento altro. No, già, ma il problema sa cos'è quando si incuffia, anch'io usavo tempo fa la cuffia. Ma non me ne accorgevo e alzavo la voce. E chi era la 50 diceva, oh, alla pace le voci. No, no, io non alzo, sto abbassando. Tu mi hai detto di alzarla perché non mi sentivo. Comunque io sto cercando sempre una stazione fissa. Che già ce l'ho. Lo so che ce l'hai. E c'ho anche lo shooter che piace, sto usando quello adesso, capi numero, lo sciure questo qua, lo sciure le, il coso, le bassa delta. Io il famoso Apache 8030, 40 canali, che quello mi ricordo negli anni 70, 74, ero signor Baracchino e funziona ancora, e ce l'ho. E poi qualche altra cosetta da ce l'ho. E domani mi sono rotto le palle, mi attacco il Tarne più 3000 a tavolo, quello grigio, ma di Nusa, e domani me lo piazzo. L'ho finito, l'ho comprato stasera da Fusaro, e domani me lo piazzo. A male a tutti dicevo. Insomma, è una collezione di io. Ne ho un bel. Poi li metto in garage e ci rompiamo tutti. E allora? Tanta vera. Cattalina 2 KK, e il Cattalina 2 ce l'ho per fare anche come si chiamava? Ma parecchi per la Rosalea KK. Però se tieni i baracchini e i microfoni che ne hai tanti da una parte, alla fin fine poi dopo un bel po' di tempo si guastano, è un peccato. Certo, e Barbariccia è mio zio. Giannetto Sassari 2 è parente mio zio, ma Giannetto la Buonaima è morto, non c'è più. Sardegna via Luzzanti 5, c'era l'adesivo con l'antenna, me lo ricordo ancora, sì c'era Achille, poi c'era Giulio, Colombano. E poi, ripeto, c'era anche Giuseppe Gino, Buonanima, con Nino e San Giovanni da Buonanima, che si sono sposati con le due sorelle di Giannetto, e tutte e due sono caputti.